Voglio leggervi questo passo. Possiamo leggere anche proiettato sullo schermo. Rendiamoci conto, non sono parole mie, ma sono parole della parola di Dio. E in Matteo 5, dal versetto 27 dice: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Non commettere adulterio. Versetto 28 dice: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala. Tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Io vorrei che noi ci rendessimo conto che queste parole le ha detto Gesù, quel Gesù al quale noi abbiamo dichiarato amore. E io mi rendo conto che uno dei problemi più grossi che noi abbiamo come credenti è che a volte facciamo una scelta di quello che vogliamo far nostro della parola di Dio. Facciamo una scelta di ciò che ci può piacere, del vivere Dio, anche come Chiesa. E magari ci piace in modo particolare quando viviamo dei tempi di lode e adorazione. Ci piace quando abbiamo una parola profetica che può essere di incoraggiamento per la nostra vita. Quando qualcuno, un fratello, una sorella che sia, viene a noi e ci rivela qualcosa di profondo, di intimo, che ha a che fare con la nostra vita e ci dà un incoraggiamento per spingerci ad andare avanti. Quando sentiamo quell'abbraccio di Gesù, no? che ci riscalda il cuore. Ed è tutto vero, è tutto bello, è tutto assolutamente parte del pacchetto che il Signore offre a ciascuno di noi, ma quello stesso Gesù è quello che predica queste parole. E sono delle parole molto forti, molto pungenti, molto dure. Però io vorrei che noi ci concentrassimo un attimo su Gesù e sul diritto che Lui ha di dire queste cose nella nostra vita. Gesù ha il diritto di dire queste cose nella tua vita, che tradotto in breve si può riassumere nel dire: non ti permettere minimamente di peccare, non ti permettere minimamente di entrare a compromesso con il peccato. Gesù ha il diritto di dire queste cose perché prima di tutto Lui è Dio. Lui è il sovrano, il creatore, colui che ha creato i cieli e la terra e colui che ha creato te. Lui ha il diritto di dire a te quello che tu devi fare perché è Lui il comandante, è Lui il capo ed è Lui che conosce meglio di te cosa è meglio per la tua vita. Nessun altro ha questo diritto. Solo Dio che ha creato te, Michael. Solo Lui che ti conosce, che ti ha pensato, che ti ha progettato, addirittura da eternità passate, dice la parola di Dio. Solo Lui può dire a te che cosa devi fare e cosa è meglio per la tua vita. Roberto, Antonio, Romina, Mary, solo Lui ha il diritto di poter dire: fai così, basta, punto. Senza dare spiegazioni, senza entrare in argomentazioni, senza doverti dare delle ragioni, Lui ha il diritto di fare questo, perché Lui è Dio. L'altro motivo per il quale Lui ha diritto di dire queste cose è perché fino a prova contraria non c'è nessun altro che come lui conosce così bene il tuo nemico. Nessun altro come Gesù conosce bene chi è Satana, chi è quel nemico tuo che è lì presente perennemente nella tua vita e rimarrà perennemente presente in tutto l'arco della tua vita per minacciarti, per rubare dalla tua vita, per distruggere, per ammazzare, per portare morte. Nessuno come Gesù conosce Satana. Ed è per questo che lui è l'unico che può smascherarlo, è l'unico che ti può liberare, è l'unico che ti può prendere e dire fai così affinché il tuo nemico non trionfi nella tua vita. La terza ragione, la più importante, è perché lui ti ama. Nessuno ti ama come Gesù. Nessuno, puoi crederci, puoi non crederci, puoi essere sicuro di questo, puoi essere insicuro, puoi essere sicuro religiosamente perché l'hai sempre sentito in questa chiesa, o puoi esserlo sicuro perché hai avuto una rivelazione del suo amore, ma a prescindere da quello che tu pensi, da quello che tu credi, da dove ti trovi, io ti dico questa sera che non c'è nessuno, nessuno che minimamente ti ami tanto quanto Gesù. E amandoti così profondamente, lui è l'unico che da questo amore profondo, sviscerato per te, vuole il meglio per te. E non è una frase fatta, lui vuole veramente il meglio per te. Come la persona che tu conosci e che ti ama tanto, vuole il meglio per te e dice determinate cose per il tuo bene. Beh, quello è solo il pallore di quello che invece l'amore, come ho descritto prima, che Cristo ha per te, e lui ti ama così tanto che non vorrebbe permettere a niente, a nessuno di minacciare te, perché tu sei caro agli occhi suoi, tu sei prezioso agli occhi suoi. Gesù ti ama, Gesù è Dio, Gesù conosce il nemico. È per questo che lui dice: se dunque il tuo occhio ti fa cadere, cavalo e gettalo via da te. Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il corpo. Questa è una delle volte in cui Gesù parla dell'inferno. È il desiderio di Gesù per te che tu non finisca in quel posto. E noi dobbiamo stare attenti a non cadere nell'illusione di una certezza che è data da una salvezza impacchettata e formulata da noi. Tu non sei salvo perché hai alzato la mano e hai fatto la preghiera di salvezza. Tu non sei salvo per l'eternità perché una volta hai fatto quella preghiera, oppure tu non sei neanche salvo alla luce di quello che la parola di Dio dice, se ti sei battezzato. Addirittura è probabile che tu possa cacciare demoni, che tu possa fare potenti miracoli nel nome di Gesù e non essere salvo. Questo è quello che Gesù dice. Gesù è l'unico che può dirti veramente che tu sei salvo, e tu puoi sapere con certezza che sei salvo solo attingendo alla sua parola e avendo sicurezza di conoscere quello che lui ha detto. E se lui ha detto che nel momento in cui c'è compromesso nella tua vita e stai accettando un membro che ti porta a peccare, tu finisci all'inferno eterno, apri gli occhi, apri il cuore, stai attento perché è grave. E il nostro desiderio è che tutti noi, per l'eternità, saremo in quel posto meraviglioso, che è il regno di Dio, alla sua presenza, per lodarlo e per adorarlo. Ma non dobbiamo illuderci che ci andremo a tutti i costi perché noi ci siamo autoconvinti che andremo. Tu devi essere sicuro della tua salvezza rispondendo a delle domande chiare, specifiche. Perché Gesù dice e usa questi termini così forti? Perché Gesù parla di cavare l'occhio, di amputare l'armo? Provate a immaginare, all'epoca di Gesù non c'erano i medici, non c'erano le sale dove potevano operare con anestesia. Provate a immaginare che cosa ha suscitato nella mente delle persone che stavano ascoltando Gesù in quel momento. Un'amputazione. Probabilmente l'avevano vista. Era dolorosa. Era qualcosa di molto, molto, molto tragica nella vita di una persona. Non solo per il fatto che poi gli mancava l'arto, ma per il momento che era così, così doloroso, nel momento in cui doveva essere segato quell'arto, doveva essere tagliato e poi ricucito, o quell'occhio cavato. Perché Gesù usa queste parole? Il motivo è molto semplice, perché Gesù vuole che noi ci rendiamo conto che con il peccato non si scherza. Che tu non puoi andare con una pinzetta per togliere i peli contro qualcosa che richiede un'ascia, contro qualcosa che richiede una sega, che richiede violenza. È per questo che Gesù usa questa illustrazione, per metterti in guardia su qualcosa che è letale. Il peccato è letale. Il peccato ti porta all'inferno. L'inferno che viene presentato da Gesù è tanto lontano dal paradiso, dal regno dei cieli, quanto il peccato e il compromesso nella tua vita è lontano dalla sua volontà per te. L'inferno è così buio, è così un luogo di sofferenza, è così distante da tutto quello che Gesù e Dio ha nel cuore. Lui vuole risparmiarti da quella condanna eterna e ti dice: stai attento al peccato, perché è lì che ti porta. Quello che il peccato fa nella tua vita è destinarti a una distruzione eterna, ma anche a un inferno terreno. Col peccato non c'è da scherzare. Se tu non cambi quell'occhio, quell'occhio cambierà te. Se tu non cambi quella mano e non la togli via da te, quella mano cambierà te. Gesù fa l'illustrazione di un'amputazione, perché cos'è che viene amputato? Viene amputato un arto quando è in cancrena. E credo che la maggior parte di noi conosce che quando un arto è in cancrena, lo si amputa per salvare il resto del corpo. E Gesù in altri termini sta dicendo: se tu accetti che anche un'area della tua vita è in compromesso, è scesa a quella comodità di dire: posso vivere una vita da cristiano con Gesù, però accettare e sorvolare su questo compromesso, sul peccato sessuale. Gesù sta parlando in modo particolare sul peccato sessuale. E nelle ultime settimane qualcuno è venuto a dire a me: ma i peccati non sono tutti uguali. No che non lo sono. Davanti a Dio tutto il peccato è uguale, perché tutto porta a quella separazione da Lui. Ma i peccati hanno una ripercussione diversa, hanno delle conseguenze diverse, vanno trattati diversamente. C'è peccato e peccato, la Bibbia parla di peccati in una maniera diversa, e quando parla di un peccato sessuale, i termini si fanno duri, si fanno violenti, perché le ripercussioni del peccato sessuale nella tua vita distrugge te, distrugge la persona che è coinvolta in questo, e distrugge addirittura la tua futura famiglia e la generazione, la società nella quale viviamo oggi. È risultato di tante scelte compromettenti e di questo peccato che è una cancrena che devasta tutto ciò che è attorno a noi. Il tuo futuro potrebbe essere distrutto da quel peccato che stai accettando nella tua vita. E forse non andrai mai a finire nel paradiso con il Signore, perché hai accettato di scendere a compromesso. Possibile? Sì, è possibile. Perché Gesù non è morto sulla croce per giustificarci a continuare a peccare. Gesù è morto su quella croce per darci perdono del peccato e liberarci dal peccato. Perché nella potenza della croce di Cristo Gesù non c'è solo la giustificazione per la tua vita, ma c'è la liberazione da quelle che sono le catene e i legami della morte nel peccato. Ed è un percorso, sì, lo so, è un percorso, ma quello che Gesù sta dicendo con questi versi è: non ti permettere di rimanere in una situazione di compromesso. Non ti permettere di accettare quel peccato e rimanere indifferente. Lotta, combatti, sii violento e togli via da te ciò che può distruggere la tua vita terrena e la tua vita per l'eternità. Non ha importanza quanti peccati hai, non ha importanza quanti difetti hai, non ha importanza quante volte ci hai provato. Ciò che è importante è che tu cogli il cuore di Cristo e decidi di viverlo per te stesso e ti rendi conto che queste parole non hanno cambiato per niente di significato dopo la croce di Cristo Gesù. Gesù le ha dette perché voleva che io e tu dichiarassimo guerra a ciò che lui ha dichiarato guerra. Non essere superficiale. C'è un'altra cosa che appare da questa immagine che il Signore dà. È che non ci possiamo giustificare che il nostro peccato è qualcosa che tocca anche gli altri. Si tratta del tuo occhio, si tratta della tua mano. Non dire: ma tutti lo fanno, tutti quanti, tutti i miei amici vivono questo, tutta la mia famiglia vive in questo contesto, anche altri credenti, perché proprio io? È la tua mano ed è il tuo occhio. E Gesù dice: togli via da te quell'arto che ti porta a peccare, togli via da te quell'occhio che ti porta a peccare, non scendere a compromesso. Non dire: ma anche l'altro ce l'ha. È quello che Adamo ha detto. Quando Dio si è presentato, ha detto: no, ma è stata la donna, lei, quella che tu mi hai dato, mi ha fatto cadere nel peccato. E la donna poi ha detto: no, è stato il serpente. E ognuno ha cercato di giustificarsi, non ti giustificare per quello che è il tuo peccato. Questa sera non ti giustificare. Hai un peccato. Vivi nel compromesso. Hai accettato di continuare a vivere in questa cosa? Ravvediti. Dio accoglierà un cuore che è pentito, che è prostrato e che riprende da quel cammino dove dichiara guerra. Nella ha parlato dell'amore ed è bellissimo, perché mi passate il mio iPhone, dovrebbe essere lì da qualche parte. Ed è bellissimo perché l'ha descritto così bene, però io voglio farvi rendere conto che l'amore, quello perfetto, prevede odio. L'amore, quello perfetto, prevede un'attitudine di odio, ed è la Bibbia che lo dice. In Proverbi 8, versetto 13, dice: il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia. Io odio l'arroganza. Io odio, ascoltate ora, la via del male e la bocca perversa. Amare Dio, amare Cristo Gesù, prevede che tu odi il male. Che tu odi il compromesso, che tu odi la perversione sessuale, che tu odi tutto quello che di negativo e di sporco c'è in te. Io odio il mio peccato, io lo odio con tutto il cuore, io non lo voglio. E Gesù lo sa, e stiamo insieme camminando. E la domanda può essere proprio questa. La domanda questa sera è: come vinco io il peccato nella mia vita? Come posso vincere il peccato nella mia vita? Io credo che il primo passo è quello che abbiamo fatto finora insieme: riconoscere prima di tutto la gravità del peccato. Il diavolo cercherà sempre di sminuire il tuo peccato, cercherà sempre di riportarti a vedere quel film, a vedere quella trasmissione, a vedere quell'intervento, ad ascoltare i tuoi amici a scuola e a conformarti a quello che è il pensiero comune. Non può fare poi così male, tutti lo fanno, è così comune. Ciò che salverà la tua vita è che tu ti distingui. Ciò che ti darà l'eredità di ogni promessa di Dio nella tua vita è quella comunione, intimità con Lui profonda. E quando tu ti alzi in piedi e dici: io non voglio credere quello che tutti gli altri credono e non voglio accettare quello che tutti gli altri accettano, lì cambierà la tua vita. Come altro combattiamo il peccato nella nostra vita? Dopo aver riconosciuto quanto esso è letale, quanto esso è negativo, devi fare una dichiarazione. Ed è una dichiarazione di guerra giornaliera. Non è una dichiarazione che tu fai a True Love e che rimane a True Love. Non può essere una dichiarazione di guerra che tu fai una volta all'anno. Purtroppo non abbiamo la possibilità di fare True Love ogni settimana, ma dovremmo farlo, almeno nei nostri cuori. Io ho bisogno di dichiarare guerra al diavolo ogni nuovo giorno, perché so che lui è in agguato contro di me ogni nuovo giorno. E il terzo e ultimo aspetto per vincere il peccato nella tua vita si trova in Galati 5,16, lo leggiamo insieme. E dice: camminate secondo lo Spirito. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne. Cioè la Bibbia dice che se tu cammini secondo lo Spirito, tu letteralmente fai morire la carne in te. Non è incredibile come cosa? A volte noi ci concentriamo sul combattere la carne, sul rifiutare i desideri carnali, sul cercare di vincere il diavolo nella nostra vita con tutte le nostre forze e poi puntualmente cadiamo. La Bibbia ci dice: no, no, non ti preoccupare di questo. Preoccupati di un'altra cosa, di camminare secondo lo Spirito. Di fare ogni nuovo passo guidato dallo Spirito, cercando lo Spirito Santo nella tua vita. E questo prevede tre passi molto semplici: che tu ti sintonizzi allo Spirito Santo, che tu ti fermi. È così fondamentale che ogni nuovo giorno tu ti fermi alla presenza di Dio e che lo cerchi e che dici: Signore, io ho bisogno di te, io ho bisogno della tua presenza nella mia vita, io ho bisogno che tu riempi i miei pensieri con i tuoi pensieri, il mio cuore con i tuoi sentimenti, la mia bocca con le tue parole. Io ho bisogno di te. Questo è ciò che ti dà forza per combattere contro il peccato. Sintonizzati a Lui, sintonizzati allo Spirito Santo e poi ascolta la sua voce. Lo Spirito Santo parla e lo Spirito Santo in questo momento sta parlando al tuo cuore e ti sta dicendo che cosa devi lasciare e come lo devi fare. Se tu hai le orecchie libere, aperte, Lui ti dirà esattamente il prossimo passo da fare, perché Lui vuole farti camminare, Lui vuole farti progredire, Lui vuole farti conquistare nuovi territori. Sintonizzati e ascolta quello che lo Spirito Santo vuole dirti, perché è specifico per te, come la tentazione del maligno è specifica ed è particolare per te, perché il diavolo conosce le tue debolezze, le tue mancanze, dove fallirai e dove cadrai, così altrettanto lo Spirito Santo ti conosce e sa come darti vittoria, sa come farti riprendere, sa come indirizzarti verso la strada che ti darà successo nella tua vita. E dopo che hai ascoltato quella indicazione che lo Spirito Santo ti ha dato, qualsiasi essa sia, fallo. Fai quello che lo Spirito Santo ti dice di fare. Qualsiasi cosa Lui ti chiede di fare. Forse lo Spirito Santo ti dirà: vai e confessa quel peccato a quella persona. A me lo ha fatto e sapete, è dura perché è un'amputazione. non può fare bene se si tratta di cavare un occhio. Non può essere facile. Ma salverà l'anima tua e ti farà entrare nel territorio dove le promesse di Dio, la sua volontà prenderà corpo, piede dentro di te, nella tua vita, e comincerai a conquistare dei territori nuovi e vedrai che lo Spirito Santo ti porterà esattamente verso quell'indicazione, quella strada che Dio ha preparato per te. Che non è la tua strada, non sono i tuoi pensieri, non sono le tue scelte, non è il tuo essere terreno, ma è la sua strada, è il suo percorso per te. Fai qualsiasi cosa ti dice lo Spirito Santo di fare. Forse devi lasciare il cellulare. Forse non devi usare più internet. Forse non devi guardare più certi film. Forse devi rompere una relazione. Forse devi rompere tutte le relazioni. Una delle cose che lo Spirito Santo mi disse quando io mi convertì è: lascia i tuoi amici. Ma Signore, io vado lì per evangelizzare, per portarli a te. E lo Spirito Santo diceva: lascia i tuoi amici. E io andavo lì e cercavo anche di parlare del Signore, e poi mi passavano una canna ed ero il primo a fumarmela. Lascia i tuoi amici. No, ma Signore, la prossima volta ti prometto, non cadrò in quella tentazione. Non fumerò niente, e mi passano una bottiglia di vino e mi ubriaco, acciuccio, e poi torno a casa e dico: Signore, basta, no, non voglio più. Dammi le forze per essere una tua testimonianza. E lo Spirito Santo: lascia i tuoi amici. Signore, ma farà male, rimarrò solo, non avrò più amici. E poi quella è la compagnia che mi piace. I bigotti della chiesa non mi piacciono. Lascia i tuoi amici. E quando poi ho detto: ok, lascio, mi cavo, amputo, ha fatto male, ma lì il Signore mi ha dato nuovi amici, bellissimi amici, e da lì si sono aperte nuove porte e nuovi orizzonti. Ho cominciato a camminare secondo lo Spirito e a conquistare territori che non potevo minimamente pensare di vivere. E lo stesso ha fatto con relazioni sentimentali. E lo stesso fa il Signore poi con certi contesti e certe scelte compromettenti. Spirito Santo sa di cosa tu hai bisogno. Ed è Lui che ti dirà: fai questo passo. Non ti dirà: fai 10.000 passi, fai un salto impossibile da fare. Ti dirà: fai quel passo. E quel passo determinerà la tua conquista della tua vita. Questa sera io solo questo voglio chiederti di fare. E per quanto doloroso esso sia, fallo, fallo, perché non c'è niente di meglio che seguire Gesù e di entrare nel paradiso e nel suo regno già da questa terra. Vogliamo alzarci in piedi? Io credo che questa sera il Signore ha voluto aprire determinate cose, andrà avanti nello scavare e nel farti fare passi. Però ciò nonostante, io voglio chiederti: se tu hai questa sera un passo da dover fare, noi vogliamo pregare. Io voglio pregare. Chiudiamo i nostri occhi e cerchiamo la sua presenza. So